la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per essere in ascolto, vi ricordo come sempre il nostro indirizzo, la casella mail versione di Oscar @radio24.it per proporre temi e spunti per nuove trasmissioni ed esserne voi protagonisti come sempre. Vi annuncio subito di che cosa parliamo oggi per consentirvi anche di mandare opinioni come sempre e di intervenire con gli sms 349-238-6666. Di che cosa parliamo oggi? Di una faccenda che è al centro di molti problemi irrisolti del nostro paese. È una faccenda delicata perché riguarda i criteri della rappresentanza dei lavoratori, quindi della rappresentanza dei sindacati, quei criteri che vanno riconosciuti come le soglie minime di consenso ai sindacati perché i sindacati possano trattare, quindi definire il contratto, quello nazionale, i contratti aziendali integrativi o intese, perché poi questi contratti e queste intese siano esigibili erga omnes da parte delle imprese. Allora, questa faccenda, che apparentemente è una faccenda tecnica, non lo è per nulla, perché se ci pensate un secondo, nelle ultime settimane noi abbiamo avuto esempi di scioperi nel trasporto pubblico locale, li abbiamo avuti a Roma come a Milano, in cui il pubblico si è inviperito per le modalità dello sciopero che era stato proclamato. In entrambi i casi lo sciopero era stato proclamato da delle sigle sindacali minoritarie che non avevano sottoscritto a Roma l'intesa per la produttività aggiuntiva con l'azienda, l'ATAC dei trasporti pubblici locali, sottoscritto a CGIL e CISL e UIL, ma non dai due sindacati di base che hanno proclamato lo sciopero, per cui è stato necessario l'intervento delle forze di sicurezza per impedire che lo scioperante, alcuni macchinisti scioperanti, fossero malmenati dai passeggeri rimasti a metà del percorso. E la stessa cosa è avvenuta a Milano la settimana successiva, quando poco prima di Expo, anche in quel caso c'è stata l'esasperazione che è esplosa a Milano per uno sciopero che ha bloccato per mattina e fino a pomeriggio la metropolitana del trasporto pubblico di superficie a Milano, e anche in quel caso proclamato da una sigla sindacale che non ha firmato qua a Milano il protocollo straordinario sottoscritto dai sindacati confederali e da altri, oltre a CGIL e CISL e UIL, con l'ATM, l'azienda di trasporto locale pubblico, per i sei mesi di Expo. Quindi l'impegno a più straordinari, l'impegno a evitare concentrazione di ferie in questi sei mesi, la nuova turnazione per i festivi e così via, nonché anche nuovi assunti che rimangono poi in permanenza, non solo per l'Expo a tempo. Allora, la questione di cui parliamo oggi quindi è centrale, perché se molti di voi pensano per esempio che nel settore pubblico vi sia oggi una soglia ben definita di rappresentanza sopra la quale e sotto la quale c'è la vigenza erga omnes degli accordi, beh, vi sbagliate. Questo è il punto. Non è così. Se andate a vedere sul sito della Commissione di Garanzia Nazionale dello Sciopero, troverete che noi abbiamo una legge generale sullo sciopero nei servizi pubblici che è degli anni 90 ed è stata aggiornata nel 2000 e che rinvia poi ad accordi tra aziende e sindacato e protocolli di autodisciplina. Quindi se andate sul sito della Commissione troverete che i principi generali che ci sono nella legge e che poi vengono dettagliatamente estesi negli accordi tra sindacati e aziende pubbliche nei diversi settori hanno tipologie e modalità diverse, ma non indicano le soglie di rappresentanza per cui il contratto o l'intesa è valido erga omnes anche se non l'hanno firmato tot sindacati, e non indica le soglie di sotto del quale questo il contratto può diventare invece applicabile verso tutti, né le indica per chi può proclamare scioperi, tanto è vero che sono le sigle minoritarie che spesso proclamano gli scioperi. Quindi questo è un punto centrale. Invece nelle aziende private in questi anni, ho finito questa forse un po' lunga introduzione, però mi scuso per farvi capire bene che parliamo di una questione centrale, con l'esplosione soprattutto della vicenda Fiat, quindi da 2011, con il lungo braccio di ferro con la FIOM rispetto ad altri sindacati che hanno sottoscritto i contratti aziendali per Pomigliano e Mirafiori, questo punto è diventato un punto centrale anche nelle aziende private. E dal 2011, primo protocollo interconfederale tra aziende datoriali e sindacati, fino all'intesa, al protocollo finale che è dell'inizio del 2014, si è fissata questa volta una griglia generale di criteri per la rappresentanza dei sindacati, cioè di risposta alla domanda: quando è che un contratto aziendale diventa esigibile erga omnes? Chi ha dei sindacati a quel punto il diritto al legittimo esercizio dei diritti sindacali nell'azienda? Chi può proclamare uno sciopero? Questo protocollo di inizio 2014 è adesso nella fase attuativa, per così dire, perché andando al punto della faccenda c'è una soglia minima di rappresentanza del 5% al di sotto della quale il sindacato non si siede ai tavoli, non può proclamare sciopero e così via. Siccome è una rottura di continuità molto forte su decenni di vita italiana, l'INPS deve raccogliere i dati, ha appena avviato all'inizio di quest'anno la raccolta dei dati, ma siamo ancora ben lungi dall'avere questo criterio come criterio, diciamo così, vigente nel nostro paese. Questo non è bastato alla Fiat per uscire dalla Confindustria, questo è un problema serio per i contratti aziendali di cui avrebbe bisogno il nostro paese per avere più produttività, contratti decentrati invece che i contratti nazionali di categoria, e soprattutto questo non vale ancora in tutto il mondo pubblico. Ecco, allora parliamo di questo perché anche se pensate a quello che sta avvenendo in Germania, quello che è avvenuto in Germania nei giorni scorsi, cioè uno sciopero di 8 giorni addirittura delle ferrovie tedesche, in Italia non sarebbe possibile alle ferrovie nazionali uno sciopero di 8 giorni di seguito, perché c'è un limite di un giorno di seguito con dei turni di fascia oraria di rispetto per i pendolari nelle città, però in Germania invece è ancora possibile. Ma perché questo sciopero di 8 giorni è avvenuto bloccando il paese? Perché entra in vigore da giugno una nuova legge, anche in quel caso sulla rappresentatività, che è addirittura drastica, perché in Germania si danno la regola che sarà solo il sindacato maggiore in ogni azienda, il sindacato maggiore, uno, a quel punto a trattare i contratti e le intese. E naturalmente lo sciopero in Germania viene dal fatto che a proclamarlo è, tra i macchinisti delle ferrovie tedesche, Deutsche Bahn, il secondo sindacato che da giugno a quel punto si vede tagliata la testa. Molti dicono in Germania che è una norma così dura che la Corte Costituzionale, la Corte di Karlsruhe, la farà decadere, ma detto questo i cittadini tedeschi di fronte a 8 giorni di sciopero battono le mani a quella norma dicendo non se ne può più. Allora, quella sarà una norma troppo, diciamo così, draconiana, ma da noi si vive il paradosso opposto, cioè la microframmentazione e degli scioperi al di sotto di ogni rappresentanza. Allora, questo è lo sfondo. Per parlarne però abbiamo un ospite che proprio a questo tema ha dedicato un libro che non è per addetti ai lavori, cioè non è solo per giuristi della rappresentanza d'impresa e del diritto di sciopero, ma è per tutti i lettori ordinari. Io ve lo appoggio molto, per così dire, perché tiene tutta la vicenda Fiat di questi anni come sfondo per fare capire questo che poi è il punto finale a cui si arriva, cioè quello della rappresentanza. Infatti il libro si intitola Da Torino a Roma, attacco al sindacato, il sottotitolo è La crisi dei corpi intermedi e il futuro della rappresentanza, e l'autore è Giuseppe Sabella. Giuseppe Sabella è il direttore esecutivo di Think In è un think tank specializzato sul mercato del lavoro e del welfare, e secondo me Giuseppe Sabella in questi anni ha dedicato a tutta l'evoluzione del braccio di ferro in Fiat sulla rappresentanza, sapete, raffiche di impugnative da parte della FIOM rispetto alle intese raggiunte a Pomigliano e Mirafiori, sentenze contrapposte e così via, però ha analizzato tutta la vicenda non come hanno fatto molti dei miei colleghi giornalisti, parteggiando per una parte o per l'altra. Se mi avete ascoltato in questi anni mi avete sentito anche molto critico sulla Fiat, però detto questo lo ha fatto guardando a questo punto fondamentale: chi rappresenta chi? Vogliamo mettere norme precise per stabilire quando un contratto è esigibile e quando si può proclamare lo sciopero? Ecco, Giuseppe Sabella, l'autore, che ha accettato di essere con noi oggi per spiegarvi occupi un po' di cose di questo paradosso italiano che per tanti decenni abbiamo lasciato covare in nome, sì, dei diritti di libertà sindacale, ma senza mai, ricordatevelo, anche fare promuovere una legge in adempimento dell'articolo 39 della Costituzione che lo prevedeva, che era una legge appunto che stabilisse da una parte i diritti di libertà all'interno dei sindacati, ma dall'altro anche gli obblighi dei sindacati, che per esempio non sono tenuti a fare un bilancio economico e patrimoniale ogni anno comprensivo davvero di tutte le loro finanze. Allora, buon pomeriggio e grazie a Giuseppe Sabella di essere con noi. Buongiorno Oscar e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Mi perdonerai se ho, per semplificare, sono stato un po' improprio forse nei riferimenti, però bisogna capire che non abbiamo a che fare con un pubblico iperspecializzato di queste tecnicalità che sono molto molto complicate. Allora, pregherei anche te di partire dal punto finale del tuo libro, da Torino a Roma, attacco al sindacato, Guerini Associati, l'editore. Allora, a oggi, a che punto siamo con l'applicazione di questa regola contrattata tra sindacati e imprese dopo tanti anni, per cui la soglia del 5% diventa fondamentale per poter sedersi al tavolo e contrattare con le aziende? Ma intanto la ringrazio Oscar, perché quello che lei ha detto sul mio libro denota, come dire, di averlo capito e denota anche, come dire, un riconoscimento di un analista importante come lei ad uno sforzo che io ho fatto notevole, perché insomma qui parliamo di una vicenda che sta segnando le sorti del nostro paese, che è stata raccontata in un modo assolutamente becero, come se si trattasse di fare il tifo per due squadre di calcio, no? Mm-hmm. E invece no, invece non è questo il punto, qui ci sono in gioco delle istanze e non è neanche detto che Marchionne abbia ragione al 100% e che Landini abbia torto al 100%, perché questo non è quello che io penso. Quindi la ringrazio per le sue parole, perché insomma credo che lei, per come ha presentato il libro, lo abbia capito. E venendo alla domanda che lei fa, io dico che siamo a un punto piuttosto, non dico morto, ma quasi, cioè noi abbiamo, dopo la sentenza della Consulta del luglio 2013, che, attenzione, dà ragione a Fiat, nel senso che dice si può tranquillamente fare contratti al di fuori del sistema confederale, perfetto, però dice che Fiat si è comportata in modo antisindacale perché va riconosciuta rappresentanza anche a chi non firma gli accordi. Sì. Allora, questo significa che questo mette le parti, e non solo la parte datoriale, mette tutte le parti nella condizione però di darsi dei criteri, perché sennò uno non firma gli accordi, poi indice scioperi, fa non, che come dire, ne rende problematica la gestione degli accordi, quindi questo è un problema. Ecco perché alla sentenza della Consulta il 10 gennaio del 2014, cioè meno di un anno e mezzo fa, segue questa intesa importante, che è proprio l'intesa su rappresentanza e rappresentatività. Ma quello che è importante è che vengono definiti dei criteri. Qual è il punto però? Che questi criteri di fatto non sono attuati, e dopo sarebbe anche interessante capire perché questi criteri non sono attuati, io nel libro ne parlo. Questi criteri non sono attuati e soprattutto si è ancora fermi lì, nel senso che poi l'accordo con Confindustria non viene esteso all'intero mondo datoriale, cioè non viene esteso al commercio, alla piccola impresa, all'artigianato, perché anche lì si fanno accordi, no? Certo. Ecco, quindi sostanzialmente noi siamo fermi a un'intesa sulla carta tra le parti sociali e una parte del mercato, cioè quella dell'industria, e però di fatto comunque, come Confindustria spesso lamenta, questi decreti attuativi non sono ancora seguiti del tutto. Quindi questo è lo stato dell'arte. Ricordiamo a chi è in ascolto, anzi spieghiamo a chi è in ascolto qual è la differenza quando un'intesa è approvata dalle rappresentanze sindacali unitarie o da quelle aziendali, perché sia davvero a quel punto applicabile ed esigibile, perché anche qui magari chi vive in fabbrica e fa attività di fabbrica lo sa, tutti gli altri no. Premesso che anche io, non essendo giurista, mi scuso se poi c'è qualche tecnico giurista appunto all'ascolto e trova magari quello che io dico perfettibile, comunque la sostanza è questa: le rappresentanze sindacali unitarie sono votate dalla base dei lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali sono votate dai tesserati. Esatto. Allora, un accordo è valido erga omnes se nel momento in cui è sottoscritto dalle rappresentanze sindacali aziendali se ne segue un referendum. Esattamente. Ci fermiamo per un minuto perché abbiamo l'informazione stradale e poi torniamo con il nostro ospite a parlare di questo problema. Gli la versione di Oscar. This is the end. Eccoci qua, tornati con il nostro ospite Giuseppe Sabella, fondatore e direttore esecutivo del think tank che si chiama Thinkin, e questo Thinkin si occupa di welfare, mercato del lavoro. Ma parliamo di questo suo libro che mi è piaciuto molto, Editore Guerini Associati, Da Torino a Roma, attacco al sindacato, il titolo del libro, La crisi dei corpi intermedi e il futuro della rappresentanza, e Giuseppe Sabella è qui con noi per parlarne. Sabella, lei è d'accordo che proprio il meccanismo di verifica della veridicità degli iscritti sindacali, quelli poi che votano le rappresentanze sindacali aziendali, mentre le RSU le eleggono direttamente ai lavoratori, è forse probabilmente uno dei motivi per cui siamo così indietro nell'attuazione e nell'estensione di quell'accordo generale che dovrebbe valere solo per l'industria, ma per il momento non vale nel mondo pubblico, in tutto il resto del mondo del lavoro italiano? Sì, io sono d'accordo. Vorrei anche fare un inciso su questa cosa. Questo famoso 5%, il meccanismo di calcolo è un po' complicato, perché è la risultante di un mix tra eletti e iscritti, esatto, al sindacato, no? Allora, chi rileva eletti e iscritti non è solo INPS ma è anche CNEL, certo. Il CNEL, certificando i contratti, rileva l'INPS rileva gli iscritti al sindacato, certo. Allora, detto questo, siccome si è parlato, addirittura Renzi parlava della chiusura del CNEL, l'Europa dice sì, però attenzione, se tu chiudi il CNEL devi trovare qualcuno che certifica ciò che il CNEL sarebbe abilitato a certificare, quindi anche questo è stato motivo di impasse nella vicenda. Certo è che questo è un punto fondamentale, perché l'incertezza che genera è tale per cui un investitore, poi con questa cosa qui deve fare i conti, cioè un investitore oggi più che mai pretende accordi esigibili e regole certe per investire. Ecco perché il governo, in maniera più o meno velata, ha fatto capire ai sindacati, questa è una cosa di cui parlano pochi ma è assolutamente presente nelle intenzioni del governo, ha proprio detto ai sindacati che se non si danno una svegliata su questo punto farà una legge, e a quel punto un erga omnes definito per legge è un erga omnes che ha una validità che io credo superi anche quello di un accordo interconfederale, che ricordiamolo resta un'intesa privata. È un'intesa privata, ma noi viviamo però da decenni e decenni con questa cosa per cui sono le intese private quelle su cui si fonda l'erga omnes nei contratti, quindi purtroppo è una caratteristica italiana, per così dire, dovuta a due ragioni. Primo, lo Stato si è sempre frenato nell'entrare nella materia sindacale, e dall'altra gli stessi privati hanno preferito, diciamola tutta, hanno sempre preferito che lo Stato non mettesse becco. Resta il fatto però che il diritto di programmare gli scioperi e l'esigibilità dei contratti, erga omnes, cioè anche da chi non è rappresentato, che li sottoscrive, secondo me impone come una legge. Ripeto, non si può pensare che nel settore pubblico questo problema venga risolto senza una legge, e lì naturalmente entriamo in un mondo delicatissimo, perché parliamo di oltre 10.000 società partecipate e controllate a livello locale e così via, e come potete immaginare lì la collusione tra politica e pubblica amministrazione e la rappresentanza sindacale è forte se non fortissima. Però il problema è questo: se abbiamo imparato qualche cosa dal conflitto Fiat, a prescindere dal fatto che ormai Fiat ha un destino di consolidamento mondiale, e in queste ultime settimane mi hanno molto colpito anche i pezzi sulla stampa internazionale specializzata, abbastanza derisori verso gli ultimi accenti accorati con cui Marchionne, invece di parlare dei bassi utili che sta facendo Fiat Chrysler, malgrado in fortissima espansione sul mercato da molti mesi, però a bassissimi utili rispetto ai concorrenti Ford, General Motors, parla di un grande consolidamento da fare per abbattere i costi, però la stampa specializzata inizia a dire: beh sì, però ti potrei permettere di fare questi discorsi quando avrai dei margini paragonabili a quelli dei tuoi concorrenti. Per dare un'idea a chi ci ascolta, nel primo trimestre, su 23 miliardi di dollari di fatturato, il margine di Fiat Chrysler è nell'ordine dei 90 milioni di dollari, di fronte a fatturati di Ford e General Motors superiori nell'ambito di 28 miliardi in un caso rispetto a 23, e 30 e rotti rispetto a 23. I margini degli altri sono di 900 milioni di dollari, cioè sono in un ordine di grandezza 10 volte superiore. Allora, detto questo, e dimenticandoci fino a un certo punto l'evoluzione che avrà sul mercato ormai mondiale Fiat Chrysler, Abbiamo imparato qualche cosa come norme e migliori regole per sperare di fare contrattazione aziendale decentrata in Italia, cioè mettere più soldi in tasca poi ai dipendenti, perché a me questo interessa per far ripartire i consumi italiani, oppure no? La mia sensazione, dovessi giudicare dai numeri molto limitati, caro Sabella, dell'estensione in questi anni della contrattazione decentrata, è che non mi pare che abbiamo imparato ancora qualche cosa di condiviso tra sindacati e aziende dalla vicenda Fiat. Lei che pensa? Ma questo perché, giusta la sua osservazione, questo perché? Perché in realtà ciò che fa crescere la produttività non è, bisogna stare attenti qua, perché non è per forza la contrattazione aziendale, ma è una buona contrattazione. Cioè, questo paese io credo che si è troppo concentrato sulla politica, sulle responsabilità della politica, dimenticandosi che le regole del lavoro le fanno soprattutto le parti sociali con i loro accordi, quindi con i loro contratti. I contratti di settore in questo paese sono circa 400, sì, e vanno a normare, come dire, poi l'effettivo lavoro e quindi la produttività che ne esce dai settori e dalle aziende. Nel momento in cui un contratto è fatto male, come era quello dei metalmeccanici quando Marchionne poi ci si scontra, ma anche per responsabilità sua era, cioè anche per responsabilità Fiat, di Fiat, quel contratto offriva poca flessibilità, no? Come. Allora, quando un contratto è una gabbia, è chiaro che la produttività ne è frenata, ma non è che, come dire, non è che la gabbia, ci sono contratti nazionali che sono molto flessibili, cioè, per esempio, se noi guardiamo al caso dei chimici, storicamente, è un contratto che offre molta flessibilità, è molto lavorato sui parametri della produttività e della redditività, ci sono multinazionali che lo applicano così com'è, multinazionali. Senza bisogno di contratti aziendali integrativi, certo. Anche se però la contrattazione aziendale, poi in un paese soprattutto il cui 98% di tessuto produttivo è la piccola e media impresa, che sarà la leva della produttività, ma sarà una buona contrattazione, che in alcuni casi potrà essere anche aziendale. Lei però scrive, secondo me molto correttamente, che l'effetto quasi paradossale del caso Fiat e dei metalmeccanici è stato quello di far apparire contraddizioni anche proprio sul contratto dei chimici, che storicamente era più avanzato per la migliore atmosfera che c'è tra i sindacati di tutte le confederazioni nel settore con le aziende. Oggi ci troviamo ad avere un conflitto che resta aperto da una parte e dall'altra, che chi funzionava meglio rischia di funzionare peggio come i chimici, proprio perché è l'esempio che fa. In un certo senso, infatti, l'umore che in casa dei chimici, e soprattutto in questo momento la casualità è che proprio il presidente di Confindustria arriva proprio di da là, quella federazione, sì. L'umore dei chimici non è alle stelle, perché erano l'ultimo baluardo del contratto collettivo nazionale. Tant'è che l'episodio che è successo a gennaio è veramente significativo, cioè a gennaio cosa succede? Per effetto della deflazione, esatto, sono non le imprese a dare i soldi, ma dovrebbero essere i lavoratori a restituirli, e naturalmente i sindacati dicono non se ne parla, e questo è un effetto di contratti fatti male, perché non prevede ciò che avviene nel contratto. Comunque, noi ci dobbiamo fermare, io ringrazio Giuseppe Sabella, vi invito a leggere il suo libro Da Torino a Roma, attacco al sindacato, perché il punto non è parteggiare tra Landini e la Fiat, ma capire che abbiamo bisogno di regole perché i contratti siano migliori, ma siano migliori per tutti, mettano più soldi in tasca a chi lavora, ma anche che siano certe le soglie di rappresentanza. Grazie a tutti, continuate su Radio 24.